17 gradi centigradi, gli dicono. E poi 53% di umidità. Non c'è vento. Condizioni ottimali. Francesco, puoi andare. Davanti ai suoi occhi un'ellisse di 333 metri, da percorrere almeno 148 volte in un'ora. Sotto di sé una bicicletta con due ruote lenticolari del tutto inedite e un manubrio a cono di bue per avere una posizione aerodinamica. Addosso un body integrale con i marchi degli sponsor per attutire la resistenza dell'aria. Tutto questo per battere il record del cannibale. Francesco è Francesco Moser. A 33 anni è il migliore ciclista italiano, ma da un paio di stagioni è come appannato, tutti lo giudicano ormai sul viale del tramonto. Il cannibale è Eddy Merckx, campione belga di rara antipatia e arroganza, che si è preso il simpatico nomignolo per via della sua ingorda volontà di potenza. Il record è il record dell'ora, cioè quanti chilometri può percorrere un ciclista in un'ora ininterrotta di pedalata. Niente medaglie, niente maglie rose, maglie gialle, no no. Il record dell'ora è piuttosto roba da Guinness dei primati, quell'elenco di imprese assurde compiute da mezzi matti. Ma stranamente i ciclisti da sempre lo prendono molto seriamente. E infatti nell'elenco dei primatisti dell'ora ci sono nomi celebri, dai pionieri De Grange e Petit Breton, fino ai più recenti Olmo, Coppi, anche Till e Merckx. Appunto, che in quel gennaio 1984 è titolare del record da 12 anni, un record fantastico, che tutti giudicano assolutamente imbattibile, sia per la distanza, sia per l'aura magica che circonda ogni impresa del cannibale che nella sua carriera conclusa a fine anni 70 ha vinto in tutto 445 corse, portandosi a casa grandi classiche, campionati mondiali, corse a tappe. Tutti pensano che, come è normale, arriverà un giorno in cui qualcuno lo supererà, questo record, ma ora no. Ora è troppo presto. E figuriamoci poi se a provarci è un ex campione, le cui vittorie più prestigiose negli ultimi due anni sono il Giro di Toscana e la Milano-Torino. Beh, non è proprio roba per cui ubriacarsi di gioia. Provarci, a dire il vero, non è stata proprio un'idea di Moser, ma di un'azienda, la Alzo Enervit. Nata nel 1954 come produttrice di medicinali creati con estratti naturali delle piante, dal 1973 la Enervit allestisce la clinica viaggiante del Giro d'Italia, facendo assistenza medica e dietetica ai ciclisti per tutte le tre settimane di corsa. Intuendo il business, negli anni successivi l'azienda inventa in pratica gli integratori alimentari che non c'erano ai tempi, creando linee di prodotti specifici per chi fa sport. Insomma, l'unione fra il ciclismo, sport da cui tutto è cominciato, e il campione visto come testimonial, porta dritto a Moser. L'idea è quella di creare tabelle di alimentazione ad hoc per battere un record emblematico come quello dell'ora e legare il nome dell'azienda all'impresa. Il risultato è doppio: si entra nella storia e soprattutto si moltiplica il fatturato. Per farlo non c'è campione migliore di Francesco Moser. È conosciuto da tutti Francesco, anche da chi di ciclismo ne sa poco. È stimato nell'ambiente, anche da chi non è un suo tifoso. Ama l'innovazione, tra l'altro. Per primo Moser ha introdotto il cambio Shimano e ha preteso di correre con biciclette griffate Moser, create apposta per lui dal fratello. E infine, Francesco è un combattente nato. Ogni volta che scende in strada o in pista, lo fa con un piglio che sembra quasi che conduca una battaglia personale contro se stesso. I grandi capi dell'Enervit però pensano che conquistarlo non sarà semplice. Tutti sanno che Moser ha un carattere fumantino, davvero contadino trentino, esuberante, semplice, sì, ma anche testardo, un po' gnucco e molto sospettoso. Quello che non sanno è che Francesco accarezza l'idea di cimentarsi sul record dell'ora da almeno 10 anni, da quando cioè nel 1974 ha assistito al tentativo sfumato da parte dell'allora compagno di squadra Ole Ritter di riprendersi il record che il cannibale gli aveva tolto 2 anni prima. E quindi alla proposta della Enervit è subito un sì entusiastico, anche se per prendersi quel record dovrà fare cose che prima non aveva mai fatto. Da ormai 15 anni, Città del Messico, per gli sport individuali, è la città dei record. L'altitudine porta meno resistenza nell'aria. Le Olimpiadi del 1968 hanno visto stabilire primati leggendari come quello del salto in lungo, che rimarranno imbattuti per un sacco di tempo. Certo, bisogna fare attenzione agli sforzi prolungati perché la mancanza d'aria porta meno ossigeno ai muscoli, ma con un buon piano di acclimatazione, ma ce la si può fare senza grossi problemi. È nel velodromo della capitale messicana che proprio nel 1968 Ritter ha stabilito il primato dell'ora, surclassato 4 anni dopo dal cannibale. Il cannibale corre alla velocità supersonica di 49,431 km all'ora. Sbalorditivo. Nel 1979 poi Città del Messico è stato lo scenario dell'epico record dei 200 metri stabilito da Pietro Mennea, che resisterà per quasi 20 anni. Ecco perché viene scelta Città del Messico per il tentativo di Moser, cui forse intriga anche l'idea di provare a battere il cannibale sul suo stesso terreno, proprio dove lui ha fatto l'impresa. Pensa, io voglio fare qualcosa di leggendario. Il periodo scelto è metà gennaio, all'inizio della preparazione, quando i muscoli sono ancora freschi e non logorati da una stagione massacrante. Ma per arrivarci ci sono mesi e mesi di allenamenti specifici, dopo l'ok con Enervit siglato nel giugno 1983. Allenamenti svolti in totale segretezza, per non bruciarsi il ritorno d'immagine. E allenamenti in cui Moser si sottopone a test fisici e scientifici del tutto inediti. Come per esempio quello che stabilisce la velocità oltre la quale i muscoli si inondano di acido lattico, di fatto bloccandosi. Ed è un test questo in cui fa la sua prima apparizione nel mondo sportivo uno strano aggeggio da applicarsi al polso durante la corsa: il cardiofrequenzimetro. Che oggi è appannaggio di ogni runner della domenica, lo si compra da Decathlon con poche decine di euro, ma ai tempi era roba quasi da fantascienza. Oppure il test svolto alle officine Pininfarina di Torino, nella Galleria del Vento, prezioso per la scelta dei materiali, tra i quali un paio di ruote lenticolari. Particolari queste ruote perché i raggi sono sostituiti da una superficie continua che riempie la ruota per una superficie non piatta, leggermente ricurva, come la lente di un occhiale, da cui il nome, lenticolari appunto. È stato un docente di biomeccanica del CONI, Antonio Del Monte, a inventarle, basandosi sui pannelli radar presenti in alcuni aerei che sono costruiti in quel modo per limitare la resistenza dell'aria. Infatti a costruirle queste ruote ci pensa un'azienda lombarda che guarda caso ha sede vicino a Malpensa, all'aeroporto. Montate sulle bici, le ruote lenticolari danno risultati impressionanti. Oh, certo, se appena appena c'è un po' di vento, oppure un percorso un po' troppo tortuoso, il mezzo sbanda paurosamente, ma il velodromo protegge da questi inconvenienti, per cui le ruote lenticolari sono proprio quello che ci vuole. Intorno a Moser poi c'è costantemente un team di professori universitari, preparatori atletici, dietologi, scienziati, pronti a misurare ogni dato misurabile. E tutti questi numeri vengono inseriti per la prima volta in un computer in grado di elaborarli. Un computer che oggi ci farebbe un po' ridere perché è massiccio, antiestetico, è l'M20 dell'Olivetti. Pensate, c'è ancora gli ingressi per i floppy disk. Quanti di voi hanno visto i floppy disk? Ma non quelli piccolini e rigidi, quelli che si piegavano col buchino in mezzo. Voi non li avete visti, io sì. Erano fantastici. E la RAM di questo computer è di 128K. Ma nel 1984 una cosa del genere è l'avanguardia. Tutto questo insieme di prime volte, inventate e elaborate al riparo da occhi indiscreti in riunioni quasi clandestine, porterebbero però al limite solo a un giusto orgoglio italico, ma niente di più, se non ci fosse un tipo come Francesco Moser a renderle realtà. Un tipo che ha voglia di far vedere a tutti che non è finito. Nonostante abbia corso per 10 anni in giro per il mondo, logorando il suo fisico massiccio, abbia messo ormai su famiglia e sia diventato da poco papà. Un tipo che ha vinto tanto, ma che ha anche perso tanto. Che ha tanti trofei in bacheca, sì, ma anche molti rimpianti nel suo cuore e anche qualche sassolino da togliersi dalla scarpa. Un tipo che, quando la notizia del tentativo di record trapela e tutti la snobbano pensando sia una boutade, non fa un po' di sé, vabbè, non c'è problema. Ma quando Merckx dice di essere certo che Moser farà un buco nell'acqua, perché è in fase calante Moser, mentre invece lui ha fatto il record all'apice della carriera. Eh no, cazzo. Allora, Moser moltiplica le energie e si dichiara disposto a fare qualsiasi cosa pur di battere il record del cannibale. Il mio record è difficilmente battibile e non sarà certamente Moser a batterlo. Così ha concluso Merckx. Cazzo, gliele fuori farli mangiare tutte queste parole, una per una. Siamo a giovedì 19 gennaio 1984. Dopo alcune settimane di ambientamento all'altura, è questo il giorno previsto per un primo test importante, per capire se tutto stia andando per il meglio, per provare a battere non il record assoluto, ma alcuni record intermedi, quello dei 5, dei 10 e dei 20 km, 2 su 3 detenuti dal cannibale, il terzo dal danese Ørsted. Il vero e proprio tentativo, infatti, è previsto per 4 giorni dopo, il 23 gennaio. Si corre in un velodromo che non è quello storico del record, perché quello là ha il fondo in legno ormai sconnesso per la mancata manutenzione, ma si tratta del meno nobile impianto del centro olimpico, dal fondo in cemento e dagli spalti decisamente troppo stretti per accogliere le migliaia di tifosi italiani che sono in arrivo nel weekend. In quel giovedì, ad assistere ai tentativi di Moser, ci sono soltanto centinaia di messicani, alcuni tra l'altro reclutati apposta anche solo per lanciare grida di incitamento, e pochissimi tifosi eccellenti, tra cui Alfredo Martini, che è il commissario tecnico della nazionale di ciclismo, e Enzo Berzot, il CT dell'Italia, campione del mondo in carica di calcio, che è in zona per visionare alcuni impianti in vista di Messico 86, perché 2 anni dopo ci dovrebbero essere i mondiali in Messico. 17 gradi, 53% di umidità, niente vento. Vai Francesco. Moser non parte a razzo, come invece ha fatto Merckx nel 72, ma con misura, per distribuire meglio lo sforzo. Un concetto che per lui è piuttosto inedito, perché nella sua carriera sono più le volte che è finito secondo per troppa irruenza di quelle in cui ha vinto. Ma quando ha vinto, ha saputo infiammare i tifosi, l'opinione pubblica, la stampa, per questo modo di correre sempre all'attacco, come se davanti a lui ci fosse sempre un fantasma da raggiungere. È così che ha portato a casa un gran numero di corse, e soprattutto di classiche, tra cui per esempio la Parigi Tour, che tra l'altro il cannibale non ha mai vinto. Tiè. La Freccia Vallone, la Gent-Wevelgem, alcuni giri di Lombardia, ma soprattutto 3 Parigi-Roubaix consecutive nel 1978 e 1980. La Parigi-Roubaix. La Parigi-Roubaix non è una semplice corsa ciclistica. È l'impersonificazione del ciclismo stesso, visto come eterna sfida ai limiti dell'atleta e del mezzo meccanico. Nel silenzio glaciale del nord della Francia di inizio primavera, dove molto spesso a farla da padrona è quella pioggerellina fitta fitta che penetra nelle ossa fino a distruggerle e disintegrarle, e la bruma ricopre un nulla fatto di campi di patate e solitarie case di contadini, si corre per più di 250 chilometri, di cui almeno 50 di micidiale pavé, dove i cubetti di porfido sbucano tra il fango e le pozzanghere, che sembra che qualcuno li abbia affilati apposta per far forare le gomme delle bici da corsa. Il percorso è tutto piatto, a dire il vero, non ci sono montagne da scalare, ma fra stradine in mezzo ai boschi, mulattiere e sentierini è un gioco al massacro. Alla Parigi-Roubaix si sa in quanti si parte, ma non si ha idea di quanti si arriva, e molti corridori all'inizio si fanno il segno della croce per arrivare alla fine almeno tutti interi. Perché chi riesce a entrare nel velodromo di Roubaix, dove termina la corsa, dopo fatiche disumane, gocce di fango in faccia, cadute con escoriazioni profonde, forature, ha il volto di chi ha fatto un giro all'inferno e ha visto negli occhi Lucifero in persona. È una corsa per uomini coraggiosi, oltre che per grandi atleti. Mosè ha partecipato per la prima volta nel 1974, nel suo secondo anno da professionista, e solo una caduta nell'ultimo tratto di pavé mentre in fuga con The Flaming gli ha impedito una clamorosa vittoria. Ma ha capito che quella corsa, ogni anno, sarebbe stata un appuntamento fisso. Arriva quinto nel 75, ancora secondo nel 76, non partecipa nel 77 ma per ordini di scuderia, non perché lui non volesse. E nel 1978 infatti è lì di nuovo, alla partenza di Compiègne. Ha addosso la maglia da campione del mondo, bianca, con i colori dell'arcobaleno, conquistata in Venezuela l'anno prima sotto un uragano che ha esaltato lo spirito da combattente con una imperiosa volata contro il tedesco Thurau. Sente la responsabilità che quella maglia dona a chi lo indossa, ma soprattutto sente che il suo fisico è pronto. Percepisce che gli dèi del ciclismo sono dalla sua parte. Alla partenza addirittura nevica. Poi si passa attraverso ogni possibile tempo atmosferico, dal vento alla pioggia, dagli splazzi improvvisi di sole alle nuvole basse del nord. La gara la fa lui. Gli altri si staccano piano piano, ma in tre gli restano incollati, non riesce a schiodarseli. E quando a 20 km dal traguardo, subito prima di una curva, accelera come se avesse un motorino attaccato alla bici, nessuno riesce più a stargli dietro. E allora appare un sole forte, primaverile, mentre Francesco schizza come un matto fuori da quella curva. Ed è solo. Solo fino a Roubaix, dove la folla lo acclama, dove vince a braccia alzate dopo tre giri finali di un velodromo intento uguale a quello dove pedala ora. Ora. Città del Messico. Senza nessuna fatica, Moser batte il record di Ørsted dei 5 km. Va avanti. Vuole arrivare a battere il primo record del cannibale, quello dei 10 km, sta facendo passaggi incredibili, gli basterebbe stare entro i 24 secondi al giro, ma arriva addirittura a meno di 23. Dal parterre gli dicono di andare più piano, vai più piano, non esagerare, cazzo, ti freghi tutto quello che hai, non c'è bisogno di tirare così tanto, ma Francesco quando è in corsa non ascolta niente, non ascolta nessuno, nessuno che non sia se stesso. È come nel 79, l'anno dopo, di nuovo alla Parigi-Roubaix, quando scatta nel polverone delle strade bianche dove non si vede nulla, si sentono soltanto le grida di chi fora o di chi cade, gli incitamenti dei pochi tifosi e i clacson dell'ammiraglio e delle motociclette. E in questo scenario apocalittico solo un corridore resta in piedi, in testa, da solo. Entra nel velodromo di Roubaix, irriconoscibile per la polvere che gli si è attaccata al sudore, ma il pubblico sa chi è. È quell'italiano matto, sì, che fa battere il cuore ai tifosi d'Oltralpe anche se non è francese. E allora sono di nuovo applausi scroscianti per la seconda vittoria consecutiva nella classica dell'inferno. E sono olà, olà, olà di incitamento da parte del pubblico messicano in quel giovedì di sole fresco in cui la storia sta cambiando. Ai 10 km il cannibale è stato battuto, e non di poco, 11 minuti e 39 secondi contro gli 11 minuti e 52 di Merckx, avanti con il record dei 20 km, poi si vedrà. I giri del velodromo continuano a ritmi, se possibile, ancora maggiori. Tanto che gli osservatori a bordo pista restano a bocca aperta nel vedere come Francesco stia mulinando sui pedali come se dovesse andare a prendere chi gli ha ucciso la moglie. Che invece la moglie se ne sta tranquillamente nel parterre con in braccio la piccola Francesca a osservare incantata l'impresa di quel matto di suo marito. Ma è così. Quando vede un velodromo, Moser, è come se sentisse aria di casa. Sembra strano, per uno che ha imparato ad andare in bicicletta nelle stradine a sali scendi del Trentino, ma la forza di volontà e la regolarità che ci vogliono per primeggiare in pista fanno parte del suo DNA. Ecco perché è riuscito a vincere il campionato di inseguimento per due volte, una da dilettante e una di professionista. Ecco perché ha vinto le sei giorni, e ne ha vinte tante. E sei giorni, forse adesso non ci sono più, forse, non so se ci sono ancora, ma non sono così famose. Quando ero piccolo io erano più famose. Sono delle competizioni molto strane che rinchiudono in un palazzetto dello sport, richiudevano in un palazzetto dello sport per sei giorni consecutivi ciclisti che si sfidano a coppie in gare bizzarre che cominciano di mattina e vanno avanti fino a notte fonda, inframmezzate da momenti di spettacolo e di cabaret. C'erano sul serio, le ho viste, credetemi. Quella di Milano, tra l'altro, è una delle più famose del circuito. Moser la vince per sei volte, facendo coppia quasi sempre con il ciclista olandese René Pijnen, battendo tra l'altro dei grandi campioni come Salonni, De Vlaeminck, Gimondi. Mentre nei pochi momenti di riposo all'interno dei piccoli padiglioni posti a centropista si scatenano sul palco la Rettore, il Mattia Bazar, Peppino Di Capri, tra le urla di disapprovazione del pubblico che vuole soltanto far vedere girare i propri beniamini e di quei cantanti io non ne frega un cazzo. Via Peppino Di Capri, voglio Moser. Chi se ne frega della Rettore? Il cobra non è un serpente, vai, voglio Moser. Moser gira come una trottola nei velodromi. Si sogna di notte nel 1980 di poter entrare di nuovo da solo in quello di Roubaix. Oh, sarebbe il secondo nella storia quasi centenaria della Parigi-Roubaix a centrare 3 successi consecutivi. E l'altro non è il Cannibale. No, il Cannibale non ce l'ha mai fatta. No, l'altro è un francese di inizio Novecento, un certo Oscar Lapisse. Ma chi è Oscar Lapisse? Ma chi lo conosce? Ma sarà mai esistito? No. Il 13 aprile 1980 il cielo rovescia pioggia ghiacciata. Un segno della presenza degli dèi, pensa Francesco alla partenza. In mezzo al fango e alla tormenta i principali avversari cadono, tutti quanti. Moser resta a pochi chilometri dall'arrivo soltanto con a ruota il tedesco Thurau. Lo stacca con una progressione agghiacciante durante un difficile tratto in pavé. Ancora una volta entra da solo nel velodromo finale, ricevendo il tributo della folla impazzita. Come qui, a Città del Messico, gennaio 1984, dove letteralmente frantuma in 1000 pezzi il record dei 20 km con il tempo pazzesco di 23 minuti e 30 secondi, un vantaggio di 36 secondi rispetto a Merckx. Moser sta andando a una media superiore a 51 km all'ora. La sua natura però è composta, il viso non tradisce fatica. Dal parterre una decisione inaspettata. Non fermiamolo, sta andando alla grande. Cazzo, forse si riesce a battere il record già oggi. All'improvviso però si alza il vento. Francesco lo capisce perché sente sbandare le sue ruote lenticolari in una delle due paraboliche che ha già percorso quasi 70 volte. Il vento. Il vento è quell'elemento che potrebbe essere decisivo perché Francesco sia sconfitto dal suo unico avversario, cioè se stesso. Perché quella sbandata improvvisa potrebbe deconcentrarlo e fargli tornare in mente quelle volte in cui la sfortuna non gli ha permesso di centrare il traguardo che era lì, a portata di mano. 27 agosto 1978. 111 ciclisti sono alla partenza del campionato del mondo professionisti su strada. Il circuito da percorrere per 12 volte è quello del Nürburgring, fra i boschi della Renania. Un luogo che per noi italiani è fonte di ricordi tragici, l'incidente a Niki Lauda che nel 1976 quasi costò la vita al pilota della Ferrari, ma anche ricordi epici, perché qui Alfredo Binda nel 1927 ha vinto il primo mondiale su strada. Francesco Moser pensa più a Binda che a Lauda. È campione mondiale in carica. Beh, ha voglia di fare una doppietta che non è mai riuscita a nessun italiano. E nemmeno a Merckx. È tranquillo in partenza, si sente fortissimo, ha la squadra dalla sua parte, anche se quel giovane Salonni morde il freno. Certo, i campioni da battere non sono di poco conto, si parla di De Vlaeminck, l'olandese Raas, il francese Hinault, l'olandese Knetteman che arriva al mondiale in forma strepitosa, ma Moser sente di essere un predestinato quel giorno, predestinato a entrare nella storia. Tutto gira alla perfezione, tra l'altro. Una fuga d'Hino, Knetteman e Salonni viene ripresa all'inizio dell'ultimo giro. I big sono tutti insieme, Raas scatta in salita, Moser non aspetta un secondo, lo va a riprendere con una ruota tutti gli altri e mentre il gruppetto sta rifiatando, pam, piazza l'allungo decisivo. Si schiodano tutti. Tutti tranne Knetteman, però, che resta la sua ruota, senza però mai tirare una volta. Pedala scomposto l'olandese, come se non ne avesse più, dovesse cadere da un momento all'altro. Si affianca a Francesco con un filo di voce, gli dice: non ce la faccio più, però dai, non mi staccare, arriviamo al rettilineo finale, tu fai la volata, vinci, ma almeno nelle foto finali ci sono anch'io, dai. Moser forse ci casca come un pollo, o forse anche non è che lui ne abbia ancora tantissimo da spendere, insomma. Fatto sta che al rettilineo finale effettivamente arrivano tutti e due, Moser bello vispo e Knetemann con lo sguardo spento, tutto storto. Francesco, sicuro di sé, fa partire la volata ai 250 metri. Si accorge di essere nella parte controvento, ma non ha problemi. È talmente potente che stacca l'olandese senza nessuna difficoltà, ma Knetemann non molla. Non molla. È sempre lì, è sempre dietro. Altro che mezzo morto di fatica. Quando agli ultimi 30 metri Francesco smette di pedalare sicuro di avere vinto, Knetemann piazza un micidiale colpo di reni che lo fa arrivare davanti di pochi centimetri. 2 centimetri. Per essere precisi, come recita l'implacabile photo finish. Francesco resta per mezz'ora seduto per terra immobile a guardare il vuoto. La botta è terribile. Sfuma il sogno di essere il primo italiano a vincere per 2 volte consecutive un campionato mondiale, ma soprattutto gli fa rabbia, ma tanta rabbia, di essere stato fregato come un fesso. Da un corridore tutto sommato inferiore a lui come classe e potenza, che fin lì cosa avrà vinto mai? Solo qualche tappa del Tour de France, e che sarà mai? Non è la prima volta che arriva secondo per un pelo, Mosè, no. È capitato anche ai mondiali del 76, per esempio, in Puglia, a Ostuni, dove a batterlo in volata è stato il belga Mertens, anche lì per poco. Alla Milano-Sanremo, la classica con cui da sempre incomincia la stagione, dove non ha mai fatto la differenza nonostante il percorso sia perfetto per le sue caratteristiche, a parte quella prima volta nel 1975 in cui arriva secondo in volata a pochi centimetri da Merckx. Sì, proprio lui, sì. E soprattutto il Giro d'Italia. Il Giro d'Italia per un corridore normalmente è perfetto, ma per un corridore italiano soprattutto è una conquista obbligata per un vero campione italiano, che si è sempre allontanato da lui il Giro d'Italia come una chimera, e si è allontanato soprattutto nelle ultime tappe di montagna, spesso dopo aver tenuto per giorni e giorni la maglia rosa. Bruciano ancora il secondo posto del 1977 dietro a un mediocre gregario Pollantier. Gli sfila la maglia rosa a 3 tappe dalla fine grazie al personalismo di Beccia, che è un gregario di Francesco, che decide di non aiutarlo nelle salite decisive. Gli brucia il 3° posto del 1978, dove viene cancellata per presunti problemi meteorologici la tappa a lui più favorevole, che aveva studiato alla perfezione per sferrare un attacco alla maglia rosa di De Muynck, che vincerà il giro. E gli brucia ancora il 2° posto del 1979, dove un attacco di gastroenterite all'ottava tappa lo debilita fino a fargli perdere terreno, che poi non riesce più a recuperare, e quel giro viene vinto da Saronni, giovane, prima grande vittoria. La carriera di Francesco, oltre che di vittorie ottenute in modo spesso rocambolesco, in ogni caso senza tergiversare troppo sui pedali, è costellata quindi di sconfitte tremende che avrebbero fiaccato il morale di qualsiasi atleta. Ma non quello di Moser, che da contadino pugnace si è sempre risollevato, pensando che l'unico modo di reagire a una sconfitta che brucia è tornare in sella e vincere la prossima volta. È successo col Mondiale del 78, dopo il quale ha vinto il Giro di Lombardia. Dopo il Giro del 77, dominando il Mondiale, e il Giro del 79, vincendo campionati italiani, e i Giri del Friuli, dell'Emilia e del Veneto. E anche dopo la Milano-Sanremo nel 75, facendo sfracelli al Tour de France, fino a impensierire Merckx, il cannibale, che si sfiancherà per togliere da Moser la maglia gialla, ma arriverà anche lui a perdere il giro. Anzi, il Tour. Ma adesso, mentre gira per gli ultimi 10-15 minuti nell'anello di Città del Messico, si rende conto che sono passati troppi anni da quelle imprese. Che forse adesso, se dovesse non farcela, non troverebbe più la forza di rialzarsi. E impalpabile come la nebbia che appare ogni tanto all'improvviso durante una Parigi-Roubaix, lo assale la paura. Alcuni passaggi incominciano a essere un po' sopra la media dei 24 secondi al giro. Nel parterre corre un brivido, Beh, non è un problema se una diva record oggi, il vero tentativo è previsto fra 4 giorni, ma non sarà che ha speso troppo e lunedì poi sarà fiacco. La moglie, Carla, ne osserva il volto che a ogni passaggio appare più affaticato. Non sa che fare, lei. L'unico modo è pensarlo intensamente, entrare in contatto con l'anima di Francesco, così refrattaria al mondo esterno, ma non a lei, che ha saputo placarlo e renderlo adulto. Sarà questo. Saranno i tifosi messicani che gridano come pazzi «Pancho! Pancho!», evocando il loro eroe nazionale Pancho Villa, che in realtà il cui vero nome in realtà è Francisco. Sa di fatto che Moser si riprende e gli ultimi giri li fa con una potenza spaventosa, addirittura violenta. Quando suona la campanella dell'ultimo minuto, Moser è quasi in trance. Vede correre a fianco a sé, o gli sembra di vedere correre a fianco a sé, i campioni del passato, antico e recente, Binda, Girardengo, Coppi, Bartali, Bobé, Van Looy, addirittura Merckx, che per un po' gli corre a fianco e poi si sfila, lasciandolo andare. E Francesco quasi pare che sul volto imperturbabile e cattivo del cannibale appaia per la prima volta un timido sorriso, come a dire: se devo proprio essere battuto da qualcuno, mi sta bene che quel qualcuno sia tu. Moser conclude l'ora con un risultato straordinario: 50 km e 808 metri. 1,4 km in più di Merckx, un incremento di quasi il 30%, roba mai vista nella storia del record. La folla è in delirio. Berzot e Martini corrono verso di lui, lo baciano, uno sulla guancia, l'altro sull'altra. I giornalisti lo assediano, i componenti del team Enervit sono quasi impazziti dalla gioia, continuano a darsi grandi abbracci, grandi pacche sulle spalle. Da lontano Francesco e Carla si guardano. Nessuna parola, basta uno sguardo per sapere che lei è stata determinante. Francesco torna quasi subito nell'appartamento di Città del Messico. Non c'è da perdersi in troppi festeggiamenti, il lunedì si ricomincia. Ci si riprova, sì sì. Qualcuno lo sconsiglia di provarci, il suo fisico potrebbe risentirne, ma Francesco non ci sente nemmeno. No, arrivano i suoi tifosi dall'Italia nel weekend e non può mica deluderli. E anche se battere se stesso praticamente sarà, vabbè, impossibile, si dannerà l'anima per provarci. Oh, va bene Francesco, vabbè, fai come vuoi te, come al solito, dai, lo so. Oh, ma poi, se tornato in Italia non avrai benzina nelle gambe per far bene la stagione, sai con chi devi prendertela, eh? Francesco abbozza facendo uno di quei suoi sorrisi da ragazzino beccato con le mani nella marmellata. Sarà quel che sarà, pensa. Intanto, sono arrivato fin qui. Anche nessuno credeva fosse possibile. Mi può anche bastare. Non sa ancora Francesco che 4 giorni dopo, nonostante il vento, correrà ancora meglio, stabilendo con 51 km e 151 metri un primato che verrà battuto solo 9 anni dopo, nel luglio 1993, dallo sconosciuto ciclista inglese Graham O'Bree, grazie a una bici ancora più particolare di quella usata da Moser. Non sa che poi la Federazione Ciclistica nel 1995 deciderà di annullare tutti i record dell'ora ottenuti con biciclette speciali, e quindi, oltre a quello di O'Bree, anche il suo, che verrà derubricato da quel momento in poi come migliore prestazione umana sull'ora. Ma non è più un record. Non sa, Francesco, che in quel 1984 la sua preparazione atletica invernale, oltre alla botta di autostima evidentemente, e all'accortezza anche di non indugiare in passerelle televisive al ritorno in Italia, gli farà vincere per la prima volta nella sua carriera, e unica, la Milano-Sanremo. Dopo uno scollinamento da brivido nell'ultima discesa a 5 km dall'arrivo e un rettilineo percorso come se fosse stato espulso da una molla. E per la prima e unica volta il Giro d'Italia, con una cronometro finale leggendaria, percorsa in sella a quella bicicletta con le ruote lenticolari che l'aveva portato al record a Città del Messico. Non sa che Merckx, alla notizia che Francesco ha battuto il suo record, rilascerà una dichiarazione molto asciutta. Mi congratulo con lui, ma non mi aspettavo davvero che fosse proprio Moser a battere il mio record. Cuor di cannibale non mente. Quel sorriso all'ultima curva, adesso Francesco lo sa, è stato davvero un miraggio. Ma la realtà dice un'altra cosa. Il record è suo. E niente, e nessuno, se non un altro ciclista, in un'altra pista chissà dove, glielo potrà portare via. Grazie.